Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata del Pioniere. Già altre volte ci siamo soffermati sull'importanza che il Pioniere di Rinaldi e di Rodari dava alla battaglia per rimuovere quel grumo di cultura reazionaria inevitabilmente ereditata dalle generazioni post 45 dopo il bombardamento ideologico, la propaganda del regime fascista nel suo ventennio. Bisognava davvero capovolgere una piramide di quel mondo fascista che nella sua filastrocca Gianni Rodari chiamava il paese dei bugiardi. C'era una volta, là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità, non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole, c'era subito uno pronto a dire: «Che bel tramonto!» Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente: «Oibò, che notte bruna, non ci si vede niente!» Se ridevi, ti compativano: «Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male?» Se piangevi, «Che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa!» Chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino, e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto, e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera, e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dalla chiappacani e chiudere al manicomio. È matto da legare, dice sempre la verità. Ma no, ma via, ma va! Parola d'onore, è un caso interessante. Verranno da distante 500 e un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bugia. Infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoo illogico, anche quel nome avevano rovesciato, in una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa! Ma questo non interessa. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per frenare l'epidemia, ma che, niente da fare. Dal più vecchio al più piccolino la gente ormai diceva pane al pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero. Liberò il prigioniero, lo elesse presidente, e chi non mi crede non ha capito niente. Al suon della campana mattutina si sveglia il sole con i raggi d'oro. Mi affretto per andare all'officina, luce di vita, fonte di lavoro. I miei balilla dormono ed il mio cuore fra di lor rimane. Sono tranquillo d'animo, nella casetta mia non manca il pane. per la strada canto questo stornello che mi è caro tanto. Il decalogo del Balilla. Primo, noi siamo i Balilla, Speranza e Letizia del Duce. Eia la la, chi vuol giovine tornare? Secondo, noi siamo i Balilla dell'Italia dal volo Gagliardo. Terzo, oggi Balilla, domani Spada d'Italia. Il secondo libro del fascista. Io appartengo alla razza ariana. La razza italiana è ariana. Essa ha la missione di civilizzare il mondo e di farne incessantemente progredire la civiltà. La razza a cui apparteniamo è alla testa del mondo. Appartengono alla nostra razza i massimi campioni del genere umano. Dunque, il paese delle bugie, quello del ventennio fascista a cui si opponeva così fortemente dopo la nascita della Repubblica Democratica Italiana, il Pioniere. C'è comunque ancora oggi probabilmente un dir comune secondo il quale il fascismo in realtà non era veramente razzista di suo. Gli italiani non erano razzisti, ma in qualche modo fu un cedimento al potente alleato tedesco Hitler. Non è convinto per niente Luca Alessandrini dell'Istituto Parri, quello della storia e le memorie del Novecento. È assolutamente falso, questa è una immagine consolatoria. Il partito fascista nasce anche dalla fusione tra il movimento dei fasci di combattimento e il partito nazionalista. Il partito nazionalista è stato un piccolo partito italiano, ma importante dal punto di vista qualitativo, perché si fondava esclusivamente sulle teorie del razzismo biologico, che era stato inventato in tutta Europa negli anni 70 del secolo precedente, negli anni 70 dell'Ottocento. Il fascismo è strutturalmente, ontologicamente razzista, perché definisce un gruppo nazionale per esclusione di altri gruppi. E questo gruppo nazionale è definito da cosa? Dal sangue. Il nesso terra e sangue. Esiste un popolo definito razzisticamente che ha diritto, per motivi immemorabili, misteriosi, arcaici, ha diritto a una certa terra. Il nesso terra e sangue è uno dei nuclei essenziali del fascismo, è razzista. Che poi i fascisti italiani ci mettano molto tempo a discriminare e a perseguitare gli ebrei dipende da un altro motivo, che gli ebrei in Italia erano molto pochi, erano perfettamente integrati nella classe dirigente e l'antisemitismo in Italia era un pregiudizio diffuso, ma non diciamo febbrile, non violentissimo. E quindi al fascismo non conviene. Al fascismo tedesco, il nazismo, invece conviene puntare sull'antisemitismo, perché gli ebrei sono moltissimi, perché il sentimento antisemita è diffuso, ma solo per questo. Basti pensare a come è razzista il fascismo fin da subito, fin dal 1919, nei confronti per esempio delle genti slave. L'Italia con la prima guerra mondiale ottiene la Venezia Giulia estesa a tutta l'Istria e alla Dalmazia. Le genti di ceppo di lingua, di cultura slovena in Friuli e nella Venezia Giulia e poi in Istria di lingua e cultura croata sono considerati inferiori, gli slavi sono considerati inferiori e nemici e la violenza la si vede subito nei loro confronti. Lo squadrismo nel nord-est nasce innanzitutto contro gli allogeni, cioè contro gli altri, contro quelli che vengono da un'altra genia, da un'altra stirpe. Poi con le guerre in Africa si vede il razzismo italiano nei confronti degli africani. È un razzismo sistematico, è un razzismo distruttivo perché ispira guerre di conquista e di sterminio. Essi sono inferiori e quindi non solo abbiamo diritto alla loro terra, ma possiamo sterminarli tranquillamente per fare più posto ai futuri coloni italiani. Questo è il motivo che ispira la guerra in Libia, la guerra in Etiopia, che sono le due guerre più violente del XX secolo. Non ci si pensa, ma è così. Ora, noi troviamo nella letteratura per l'infanzia, nei libri di lettura per la scuola, nei fumetti, nei giornalini della domenica per bambini, troviamo continuamente riferimenti al razzismo antiafricano e poi, a partire dal 1934-35, anche al razzismo contro gli ebrei, ma in particolare il razzismo contro gli africani nella letteratura infantile e giovanile è enormemente diffuso. Ricordo per esempio una vignetta di un bravo Balilla cioè un ragazzino fascista di cui vi dirò tra un istante, che con l'insetticida spray, che a quell'epoca non si comprava già fatto, ma era una specie di bomboletta con una pompetta, che con questa pompetta irrora un gruppo di bambini africani che muoiono immediatamente a decine. Risaltando esattamente ciò che stava facendo in quel momento Mussolini, che ordinava di bombardare con i gas tossici la popolazione civile etiope, semplicemente per ridurla di numero, quando ormai l'esercito etiope era stato sconfitto nel 1936. Questo è quindi un razzismo profondo, strutturale. Quando si dice nesso terra e sangue si è già razzista. E ora è difficile stabilire cosa sia, sarebbe un discorso molto grande, la purezza italiana. È chiaro che il razzismo biologico, che è un'invenzione falsa in tutto il mondo, ma in Italia è particolarmente difficile da sostenere, perché troppo composita è la struttura del popolo italiano. E dunque il fascismo inventa, facendosi forte anche di altre tesi che circolavano all'epoca, ma fa propria, diciamo, la tesi di un razzismo esoterico tradizionalista, per cui, secondo il quale, chi avesse vissuto per secoli con una certa cultura, con certi stili di vita, avrebbe in qualche modo assorbito una natura profonda che ne mutava anche i geni, anche i cromosomi, e che lo faceva diverso da tutti gli altri. Questa è l'idea di razza italica, che si innerva nella cultura propinata alla gioventù. Samuel Byrne, governatore dell'isola La Lua, perseguita l'italiana Ida Arditi, moglie di un legionario che proprio in quei giorni è impegnato nella guerra di Spagna. Per fortuna della signora Arditi, prende le sue difese una compatriota, Franca. Risparmiatemi le vostre lezioni e non immischiatevi in ciò che non vi riguarda. La questione mi riguarda, perché la signora Arditi è italiana come me. Me ne rido di voi e del vostro paese. Ecco ciò che meritate. Andiamo, signor Arditi. Italia chiusa fra le Alpi e il mare, terra d'artisti, martiri ed eroi, d'Europa i vili sentan soffocare la tua possanza ed affamare noi. Devoti figli, poi che l'Anglia vuole toglierti il posto che ci spetta la sole. Italia in piedi, bandiere al vento, comanda il duce con ferro accento. È certo che anche l'editoria per ragazzi, e in particolare i fumetti con il Balilla, furono uno strumento importante di penetrazione del fascismo nella cultura giovanile. Un concetto, quello della gioventù, che il fascismo fece proprio, come ci conferma ancora Luca Alessandrini del Parri. Innanzitutto occorre dire che l'impegno sulle giovani generazioni è una novità di cui il fascismo si appropria. I giovani erano una categoria inesistente. Si passava dalla fase della prima infanzia all'età adulta senza vie intermedie. Nel vecchio mondo c'erano i bambini piccoli piccoli e poi si passava al mondo del lavoro o al mondo adulto. È chiaro, i nobili, le classi abbienti avevano la possibilità di studiare, ma non c'era uno specifico giovanile. Quando lo specifico giovanile comincia a disegnarsi nell'Europa borghese, ricordiamo 1907 la fondazione degli scout in Inghilterra, del movimento scoutistico in Inghilterra, l'Italia resta un po' ai margini. Certamente c'era stata un'attenzione con l'obbligo della scuola elementare obbligatoria per tutti, almeno fino alla terza elementare e poi più avanti fino alla quinta, ma si tratta di una questione non pienamente tematizzata. Nel primo dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale, in Italia il potere è fascista e il fascismo si prende carico dei giovani. Quindi la prima cosa che voglio dire è che chiunque in quell'epoca si sarebbe fatto carico dei giovani. In Italia c'è il fascismo, lo fa il fascismo, ma il fascismo lo fa in un modo proprio, lo sintetizzo. Innanzitutto si propone come regime completamente nuovo e giovane. Il fascismo dipinge la democrazia come un uomo vecchio, bolso, con la barba bianca, incurvato e appesantito. Invece il fascismo è un ragazzo giovane, aitante, scattante, nervoso, aggressivo, violento. Questa immagine è un'immagine che viene tradotta a tutti i livelli dell'organizzazione sociale. L'uomo nuovo fascista è nuovo perché è ideologicamente diverso, ma è nuovo anche perché è, da un punto di vista generazionale, diverso, nuovo, nuove generazioni. Il fascismo, per esempio, mette al governo, se volete, a scopo simbolico, demagogico, ma lo fa davvero, dei ministri giovanissimi a fianco di ministri molto anziani. Questa idea del giovanilismo fascista appare dappertutto. È noto che l'inno principale del fascismo, che viene suonato insieme alla Marcia Reale come inno dello Stato, è Giovinetta, una canzone che deriva da una precedente operetta, il cui testo viene riscritto nel 1926 e che immette alla giovinezza come motivo centrale, ispiratore del fascismo. E qui veniamo alla cultura popolare, prima ancora del fumetto, proprio la musica, le canzoni, l'immaginario. L'immaginario è quello di una nazione militarizzata, violenta, gerarchizzata, insomma, una nazione esercito. Il modello è quello della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale che si era appena conclusa, che era stato un tragico bagno di sangue, ma che per l'Italia era stata anche vittoriosa. Il fascismo propone che la società civile sia organizzata come un esercito, come l'esercito vittorioso nella Prima Guerra Mondiale. E chi fa la guerra? I maschi giovani. Quindi una società tutta virilizzata, il fascismo rilancia il vecchio patriarcato che era ormai in crisi con un nuovo termine, virilismo, imponendo la maschia forza del giovane fascista. E passa il giorno e torno a casa mia, fiero e contento quasi a prima sera, al dolce suono dell'Ave Maria, io benedico la camicia nera. I miei pali l'aspettano, con essi son la madre e il mio tesoro. Thank you. Beh, certamente molto meglio che Jarrett, che non queste stentorie, canzoncine propagandistiche didattiche del fascismo sui Balilla e sulla Santa Famiglia Italica. Che Jarrett che ci serve come ponte per cambiare completamente argomento e veniamo a una storia di un famoso giornalista italiano, Fois, che diventa graphic novel, quindi passa attraverso il disegno e attraverso il lavoro di Daniele Serra, che è un giovane fumettista che si è dimostrato di grande valore. Questa illustrazione di Carne, un lavoro già pubblicato per Guanda da Marcello Fois e poi appunto ripreso e tramutatosi in una sorta di metamorfosi in graphic novel. Un lavoro che è stato molto apprezzato e che noi recuperiamo in questo dialogo, a suo tempo registrato a Bologna, al Genius Bonomia, in una serie di incontri tra letteratura e anche fumetto, appunto cui due protagonisti, Marcello Fois, lo sceneggiatore, lo scrittore, e Daniele Serra, l'illustratore, a confronto, che ci spiegano un po' come si traduce un romanzo in graphic novel. Questa operazione qui, anche a mia, come dire, con mia grande sorpresa, perché è un mondo che io non conosco minimamente, ha avuto delle recensioni straordinarie, strepitose, proprio in maniera quasi unanime, che è pericoloso. Non è molto bello questo, però è stato molto ben accolto proprio da un punto di, anche dagli addetti ai lavori. Io personalmente io prima di scrivere disegnavo, quindi questo è il mio, non sono molto distante dal mio habitat, capisci? Quando ho cominciato a scrivere ho smesso di disegnare, evidentemente era meglio per me che scrivessi piuttosto che disegnassi, però insomma sono stato un disegnatore non disprezzabile. Ho fatto anche qualche lavoro di illustrazione, insomma ho fatto varie cose nella mia vita precedente, me ne sono occupato, per cui è forse è possibile che io poi abbia della scrittura. Dentro la scrittura cerchi di ricostruire una situazione, un certo tipo di immagine, un certo tipo di cose. Ecco, la magia di fare questo tipo di lavori è di capire che c'è tutto un altro strato, che c'è un altro punto di vista che lavora contemporaneamente al tuo. Ecco, questo è importante, no? Come quando tu leggi la tua biografia su internet, no? Capisci che hai fatto più cose di quelle che sai effettivamente, a volte è così. E quindi, per esempio, io quando ho visto la versione di Daniele di Carne, perché questa è la versione di Daniele, ci potrebbe essere 10 versioni diverse di queste cose, no? La cosa bella è che ogni disegnatore preferirebbe un altro approccio, un'altra situazione, e magari verrebbe fuori un fumetto completamente diverso, no? Quindi questo è il bello di fare questo lavoro, che tu leggi questa cosa, l'hai fatta anche tu, ma di fatto poi ti sorprendi, ti piace sorprenderti, questo è. Io ho questi racconti qua che sono molto particolari, riguardano un personaggio molto particolare che è Filippo Carnevali, poi Carne per gli amici, appunto il titolo non riguarda, cioè riguarda poi anche la carne di fatto, però Carne è il nomignolo con cui chiamano lui i suoi colleghi in commissariato, no? Il suo collega Vitali, che tutti chiamano Vita, quindi Carne e Vita sono i due. E quindi gli ho detto, ho questi racconti qui che mi sembrano adatti per il tipo di cosa che ho in mente. Dopodiché, così, senza nessun tipo di prospettiva, io gli ho mandato il racconto. Lui ha cominciato così, a zero, come tutte le persone che hanno più la gioia di lavorare che la prospettiva, voglio dire, è iniziato, ha fatto 2, 3, 4 tavole e ho detto, cavolo, sono bellissime queste tavole. E quindi ho telefonato all'editore da Guanda, ho telefonato a Brioschi e gli ho detto, ci sarebbe questa cosa qui. Usiamo un racconto di Guanda, quindi non c'è un problema di diritti, e lui mi ha detto: guarda, mandami queste tavole. Gli ho mandato le tavole, quelle che lui aveva già fatto, e dopo 2 ore e mezzo circa mi ha detto: benissimo, datemi gli indirizzi a cui devo mandare i contratti e facciamo questa cosa qua. Racconti di Marcello si adattano perfettamente a un fumetto, perché ha la giusta equilibrio di dialoghi e descrizioni, quindi per me è stata veramente una cosa quasi naturale in qualche modo. Mi sono rivisto molti film di Fernando Di Leo, di polizieschi italiani anni 70, infatti c'è anche un personaggio che un po' ricalca quello stereotipo che quello della scientifica con dei baffoni e degli occhialoni. Quindi ci sono molti riferimenti da quel punto di vista. Ecco, mi piaceva l'idea di che fosse un qualcosa di estremamente cinematografico che è letterario. Sì, la discussione fondamentale è stata: che faccia ha questo individuo? Ecco, questo è stato il dato, no? Poi non era tanto cosa da dire, cosa farà, come si muove, è proprio che faccia ha. Magari io ho utilizzato una strada in cui molto spesso c'è l'ombra sugli occhi, la bocca un po' storta, cioè volevo che si vedesse e non si vedesse, volevo proprio dare questa sensazione di torbido, di sporcizia, un po' di non finito, ecco, da questo punto di vista. Marcello mi ha detto, magari mi ha dato un paio di attori di riferimento. Sì, è vero. Un attore abbastanza poco noto, però si chiama Aaron Eckhart. Era lui ho detto, è così, è questo tipo qui, Carnevali, cioè non è Bruno, ecco, è chiaro, lui fa sesso continuamente, in maniera compulsiva, poco controllata, poco igienica, oserei dire, e senza limiti. Senza e io a censurare tutto. E lui a censurare continuamente, mettere stranissimi controluce. Ma c'è alcune cose sullo sfondo, si allontana in campo lunghissimo. Sì. Sembra che la stanza sia diventata una caserma, praticamente. Esatto. Con un letto in fondo. E alla fine poi nella copertina Faraci, che è uno figo, rispetto alla copertina che aveva scelto Daniele, che era una copertina molto, molto neutrale, invece Faraci ha messo, come dire, una specie di scena cardine. Il fatto che era la mia prima esperienza come sceneggiatore, diciamo. Quindi io ho sempre lavorato come disegnatore che ha una sceneggiatura e si occupa solo dei disegni. Invece in questo caso occuparmi anche della scansione proprio delle tavole era una cosa totalmente nuova per me, una sfida in più. Anche se poi ho scoperto che è molto bello perché ti permette molta libertà. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano